Buonasera a tutte e tutti. Inizia fra poco, come ogni giovedì dalle 20 circa, la trasmissione Zardins Magnetics. Staremo in compagnia per un'ora e mezza, con contributi di approfondimento, controinformazione e musica, fino alle 21.30. Può partire la nostra sigla, Retribution, dei Behind Enemy Lines. Buon ascolto. Retribution begins. Each day claims a life, but a half dozen lives. Fire backlash. Bombs were falling, turned into a bloodbath. Occupation of liberation. Nation building, picked up her fight that breaks. Trapped in this wild fire. Back for town, guns go on the fire. See a blood flood, the occupied land. While a village in, police were in the sand. And the presidential sand. Ciao a tutti e a tutte le ascoltatrici di Zardins Magnetics. Questa sera volevo ritornare sempre sull'argomento Green Pass per alcuni aggiornamenti che della vicenda che secondo me meritano di essere citati e sui quali bisogna fare qualche riflessione. Beh, come probabilmente saprete, il 15 agosto il governo ha pubblicato delle FAQ sarebbero frequenti il Ask It Questions, che ormai con cioè delle risposte alle domande frequenti che ormai sono diventate delle fonti interpretative, se non direttamente legali, purtroppo nel periodo dell'epidemia. Ecco, questo è un dato triste del diritto, ma insomma è così, rivela anche la degradazione di quello che è lo strumento legale del diritto in questo paese e in molti altri a seguito della svolta autoritaria con l'emergenzialismo rispetto all'epidemia. Ecco. E queste FAQ cosa stabiliscono? Che il Green Pass è obbligatorio nelle mense aziendali. In realtà si tratta di una risposta che il governo svolge rispetto a delle contraddizioni in corso, in sviluppo, quelle sui posti di lavoro, perché fin da subito, fin dopo il decreto del 23 luglio sull'obbligo dei Green Pass nella ristorazione, i padroni in vari posti di lavoro avevano iniziato a imporre il Green Pass per l'utilizzo della mensa, delle mense aziendali, e questo aveva provocato una polemica con i sindacati, molto, secondo me, su basi molto ipocrite, perché i sindacati l'unica cosa che facevano era quella di dire ci vuole una regolamentazione legale da parte del governo, ma non contestavano in sé lo strumento e assolutamente e neanche il suo utilizzo sui posti di lavoro, semplicemente demandavano la questione al governo, definendo un arbitrio quello dei padroni, ma insomma era chiaro che, avendo accettato di fatto la vaccinazione obbligatoria per i sanitari o almeno la stragrande maggioranza dei sindacati, avendo accettato i Green Pass nella scuola e nell'università, e questo sarebbe stato il passo successivo, provvedimenti decisi dal governo. E quindi infatti il governo ha agito il 15 agosto. Questo passo del governo viene anche due giorni dopo una vicenda che si svolge a Torino, in provincia di Torino, a Campiglione Fenile, presso lo stabilimento della Anon System, nella quale le RSU avevano proclamato uno sciopero per la questione del Green Pass aziendale. I padroni avevano fatto marcia indietro, aprendo la mensa anche agli operai che ne erano privi, e il governo è intervenuto anche a fronte del fatto che questo esempio si poteva sviluppare e che i padroni si potevano trovare isolati anche da questo punto di vista. Gli ha dato così uno strumento forte con questa FAQ per imporre il Green Pass sui posti di lavoro. Ecco, quindi oggi succede un po' ovunque, abbiamo gli operai che privi di questa tessera del fascismo vaccinale, che mangiano fuori in cortile, nelle scale, eccetera. Questo è il livello che oggi si sta vivendo sui posti di lavoro in Italia in tempi di apartheid vaccinale. Not when we die, not for the new man. Sì, si parlava di Green Pass sui posti di lavoro, sull'imposizione da parte dei padroni. E con 15 agosto, col fatto che il governo ha avallato normativamente, se possiamo dire, con la FAQ sul proprio sito questa interpretazione estensiva rispetto alla ristorazione anche sui posti di lavoro dell'obbligo di Green Pass. Questa manovra non è una roba, da poco, anche perché la dimensione lavorativa è stata una degli ambiti fondamentali, se non il principale, per la diffusione del Covid nel nostro paese. Ecco, pensiamo alla responsabilità proprio del padronato e delle istituzioni rispetto al principale focolaio con cui si è diffuso il Covid nel nostro paese, quello di Bergamo, nella primavera dello scorso anno. Ecco, mentre imperversava l'epidemia, la Confindustria di Bergamo diffondeva il video Bergamo is running, non so se vi ricordate, e il governo e la regione non facevano nulla per imporre una zona rossa nelle province più infestate del Covid in quel periodo, che era proprio la provincia bergamasca. Perché? Perché gli interessi alla circolazione delle merci e alla continuità della produzione erano fortissimi, e la pressione dal punto di vista padronale in questo senso era pesante, e anche l'integrazione di quei comparti produttivi con produzione industriale a Wuhan, uno dei principali centri industriali a livello mondiale, era forte. E poi la diffusione del Covid sui luoghi di lavoro, nonostante il lockdown, cioè nonostante vi fossero dei domiciliari di massa per il tempo non lavorativo, principalmente per milioni di lavoratori proletari italiani, fu uno dei fattori dimostrò nella primavera scorsa come le misure di lockdown non erano una barriera posta alla diffusione del virus, ma un provvedimento autoritario di domiciliazione di massa, un esperimento di controllo e gestione della società, un alibi per i governi per la diffusione del virus. Erano tutto questo, insomma, vi erano interessi a ristrutturazioni capitalistiche sulla base della digitalizzazione, eccetera. Vi era sì il tentativo di arginare l'epidemia, ma perché le terapie intensive si stavano saturando e il governo e l'istituzione avrebbero dovuto lasciar morire la gente a casa in molti casi, anche perché contemporaneamente le cure domiciliari, forme di cura venivano boicottate, eccetera. Tutto questo va detto, ma se dobbiamo guardare la questione dei posti di lavoro, per molti versi, già mentre la gente era rinchiusa in casa, milioni di operai, di proletari, di lavoratori erano costretti comunque ad andare sul posto di lavoro, e lì il contagio inevitabilmente crebbe con un'ipocrisia enorme. E non si poteva andare a fare una passeggiata, ma si poteva andare in fabbrica stretti fianco a fianco. E allora, se vi ricordate, il governo Conte fece un protocollo di sicurezza firmato dai sindacati e dagli industriali, quello del 14 marzo, ma poi furono solo gli scioperi, l'agitazione operaria a partire dalla Fiat di Pomigliano, che già erano iniziate ai primi di marzo, a imporre, in molti casi, non dappertutto, a riuscire a imporre in taluni casi la chiusura delle fabbriche, eccetera. Ecco. Con questa operazione dei Green Pass, invece, la palla, l'iniziativa sulla prevenzione dell'epidemia, cosiddetta prevenzione dell'epidemia, torna in mano ai padroni, no? E questo ci deve far riflettere sulle modalità di gestione dell'epidemia, che alla fine, se sono quelle dettate dai passaggi autoritari e dei governi, alla fine non hanno nessun rilievo sanitario, nonostante molti compagni e compagne ci calano. Mi riferisco ai vaccini, ma alla fine diventano strumenti semplicemente di gestione di finta gestione dell'epidemia, di controllo sociale, di discriminazione, di stigmatizzazione. Ecco, adesso gli untori sono sui posti di lavoro, sono gli operai non vaccinati. I padroni si lavano la coscienza con questa operazione del Green Pass nelle mense e sui luoghi di lavoro. Ecco, dunque, si diceva del Green Pass sui posti di lavoro, che è uno strumento per rovesciare le responsabilità al falsal, cioè l'organizzazione capitalistica del lavoro e il suo obiettivo di profitto e gli interessi contingenti dei padroni sono stati obiettivamente complici, se non la causa principale, se dobbiamo risalire addirittura al formarsi dell'epidemia a Wuhan, pensiamo agli allevamenti intensivi e la concentrazione di masse umane in questa metropoli, all'ambiente malsano del forte inquinamento, peraltro con molti fattori simili alla Lombardia e principale focolaio in Italia, ma anche stando alle questioni contingenti che abbiamo visto nel nostro paese, le responsabilità dei capitalisti, degli industriali sono dirette nella diffusione dell'epidemia. Abbiamo ricordato la mancata proclamazione della zona rossa a Bergamo, probabilmente l'unica zona rossa che andava fatta nel nostro paese, mentre l'intero paese veniva poi ridotto a lockdown, a zona rossa, inutilmente rispetto alla diffusione del virus. Ma con questa storia del Green Pass sui posti di lavoro, la responsabilità, i padroni compiono un'operazione propagandistica, egemonica, per nascondere, far carico delle responsabilità agli operai non vaccinati, ai dipendenti non vaccinati. E questo è in coerenza con quello che sta dietro a questa operazione del Green Pass. Di fronte al fallimento della campagna vaccinale, già ricordavamo l'altra settimana sul fatto che questi vaccini sperimentali e genici sono in larga parte, se non completamente, lo dicono i numeri, inutili, sono forieri magari di mutazioni addirittura del virus, nuove varianti, ma vengono utilizzati a scopo propagandistico. È il rovescio, è il rovescio di questo utilizzo, e dire vabbè, chi non ce li ha è l'attuale untore responsabile della diffusione del virus, eccetera eccetera. E sono una grossa operazione di deresponsabilizzazione per lo Stato, per i padroni nello specifico. Siamo arrivati dunque al discorso che riassumavamo. Ecco, il problema si pone anche in altri termini, nel senso che è stato aperto un varco sul impossessamento da parte dei padroni dei dati sanitari dei dipendenti, e questa è una cosa gravissima. I sindacati si stanno rivelando, sì, a parte delle eccezioni, CUB della sanità, qualche sindacato della scuola, si stanno rivelando complici in questo processo. Anche l'ultimo protocollo sulla scuola non fa che riaffermare le buone intenzioni mai attuate del governo sulle classi pollaio, sugli impianti di areazione eccetera, ma contemporaneamente mette, come dire, un sigillo su tutta l'impostazione rispetto al Green Pass che il governo ha deciso dal canto suo, eccetera. Si dice tamponi gratis a chi non li vuole fare, farsi trapanare il naso 2-3 volte alla settimana nel massimo, poi si è subito specificato che non per i cosiddetti insegnanti o bidelli Novax, sarà solo per quelli che non possono fare il vaccino. Ecco, comunque la mobilitazione sta andando avanti, ci sono state grosse manifestazioni a Torino, Milano, anche mentre stiamo andando in onda c'è una mobilitazione, la scorsa settimana dico Torino, Milano, mentre stiamo andando in onda c'è una mobilitazione a Trieste in Piazza Unità per le cure domiciliari. Ecco, i lavoratori colpiti, ormai quasi tutti i posti di lavoro, quelli con una certa dimensione, con una mensa, eccetera, non solo scuola, università e sanità, è giusto che secondo me si collocano in questo movimento, che gli stiano al fianco, che lo facciano anche crescere qualitativamente, portando la questione lavorativa, e che quindi continuiamo a lottare uniti contro l'apartheid sanitaria, contro la deriva autoritaria giustificata per motivi sanitari, al di là di quello che i finti sindacati stanno facendo, blaterando, come su altre questioni, come sullo sblocco dei licenziamenti, eccetera, in generale contro le politiche dei padroni e dei loro governi. Avanti nella lotta. Ciao. mandi a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori anche da parte mia. E per questo giovedì post Ferragosto ho pensato a una lettura di un libro che si intitola Sul filo del tempo di Mergi Piersi, una scrittrice americana ma non bianca, diciamo, e che appunto ha scritto questo libro. Questo libro è stato pubblicato nel 1976 in lingua originale, cioè nella lingua inglese, e poi è stato proposto nella traduzione italiana da Eleutera nel 1990. Sul filo del tempo parla di una racconta la storia di una donna, Connie Consuelo Ramos, che è una chicana di 37 anni, che è nata nel Texas, una donna disoccupata, vittima della discriminazione razziale, sociale e sessuale. Questa protagonista del romanzo Sul filo del tempo vive nel qui e ora, nella sua realtà reale, una devastante esperienza di psichiatrizzazione. Vive però anche un'altra dimensione, cioè riesce con la sua mente, con la sua sensibilità, a mettersi in contatto con una realtà, diciamo, futura, cioè con questa sorta di società utopistica libertaria che si chiama Mata Poiset e che vive nell'anno 2137, quindi molto dopo la realtà reale di questa Connie. E quindi diciamo che questo romanzo fa parte un po' del filone della fantascienza utopistica, Ursula Le Guin per capirsi, su questo filone qua. E è molto particolare perché appunto ha questo, io almeno l'ho trovato molto particolare, molto interessante, per questa forte tensione politica relativamente alla psichiatria, però anche in generale all'oppressione, diciamo, tecnocratica, statale e psichiatrica. E poi ha uno sguardo anche molto critico e molto non pacificato anche relativamente a questo mondo utopistico, diciamo, che dipinge comunque sì, in questi viaggi, in queste incursioni che Connie fa nel futuro. Per quanto riguarda le letture che farò, mi sono limitata al qui e ora, cioè alla realtà reale che Connie vive all'interno della struttura di detenzione in cui è costretta e anche nelle sue azioni per liberarsene e per liberare non solo se stessa ma anche gli altri soggetti che vivono la sua stessa condizione. I live in a town called Apathy. I live in a street called Overlooks. I live in a state called real estate. I live in a land called greed. My pot of gold is my pot of piss in the morning. I'm afraid of change and choking. Being alone with the devil. I'm afraid of white men. I'm afraid of all governments. I'm afraid of ignorant politicians. I'm afraid of censorship. I'm afraid of censorship. No more bad thoughts, this is a Abbiamo già la firma di suo fratello sul modulo di autorizzazione, le diceva Hacker, passandosi la mano sulla barba squadrata. Ma vorremmo anche il suo permesso, vogliamo essere sicuri che lei capisca quello che stiamo facendo per aiutarla. Vogliamo che lei collabori di tutto cuore. Gli occhi color latte e cacao indugiarono su di lei. Così vi sentirete meno colpevoli per quello che ci state facendo. Di colpo si abbandonò sul bordo del letto, stava incominciando a seccarla. Che cosa stiamo facendo? Vi diamo un'opportunità di uscire dall'ospedale, di condurre una vita migliore, di porre fine a questi episodi di violenza distruttiva. Questo è l'obiettivo a lungo termine. Come obiettivo a breve termine, porteremo tutti i pazienti via da questo ospedale statale per trasferirli in un reparto al NJNPI, un confortevole reparto di ricerca. Lei non sa cosa voglia dire trovarsi in un ospedale psichiatrico ben attrezzato, niente dormitori. Potrà intrattenersi con la sua amica Sibyl. Cibo buono, la sua famiglia verrà a trovarla una volta che sarà a Manhattan. E in più, l'opportunità di farmi strapazzare il cervello come ad Alice. Connie, fra 2 mesi Alice sarà a casa. Se ci abbandona, crede di riuscire ad andarsene a casa fra 2 mesi? Beh, non stavo andando mica male. Lei non tornerà al G2. Se viene trasferita da qui, tornerà da dove l'abbiamo presa, al reparto violenti, l'L6. Con una nota sulla cartella che dice come si sia dimostrata scarsamente disponibile alla collaborazione. Lei si girò verso la parete, rifiutandosi di parlargli ancora. Dopo qualche minuto se ne andò. Sarebbe tornato. Si ricordò di una cosa che aveva sentito dire al dottor Redding, al sovrintendente Hodge, che avevano impiegato 5.000 scimmie prima di cominciare a eseguire l'operazione sui pazienti. Impiegato. L'aveva sentito dire che avrebbe voluto lavorare con i prigionieri. Pensava che i risultati sarebbero stati ancora più impressionanti. Ma c'era stato tanto di quel baccano per 3 piccoli interventi psicochirurgici a Vacaville in California che la sua equipe aveva deciso di lavorare sui malati mentali. Dopotutto, aveva detto con uno dei suoi migliori sorrisetti ironici, è stato sollevato un caso giudiziario e un battage pubblicitario da strappare il cuore per 3 interventi. Mentre al San Francisco Children's Hospital se ne fanno a centinaia con sonde di vario genere e la maggior parte su donne nevrotiche e su bambini incurabili e nessuno dice bah. Così dopo 5.000 scimmie ora passavano a impiegare loro uno alla volta. Si diresse a passo di marcia verso Sibyl. Sibyl, stanno per finirci. È la morte, comunque loro la vogliano chiamare. Sibyl sedette a gambe incrociate di fronte a lei, i suoi occhi la interrogavano. È vero che questo è un reparto chiuso, ma l'ospedale qui ha una sicurezza ridicola in confronto a dove stavamo prima. So che riuscirei ad uscire da qui, se solo potessi sgattaiolare fuori dalla corsia. E come? Mangiamo qui, dormiamo qui, non c'è nemmeno una veranda. E se gli facessi credere che sto male? Le mani di Sibyl si alzarono e fluttuarono nell'aria, graziose e indifese come 2 colombe. Potresti morire di vaiolo prima che si decidano a fare qualcosa. Tu ci proveresti con me? Sibyl abbassò lo sguardo, fletté le dita, sospirando. Senza soldi. Ho $10, con quelli potremo prendere un autobus per qualche posto, poi potremmo fare l'autostop. Skip dice che le donne riescono sempre a farsi dare un passaggio. Solo per allontanarsi dall'ospedale, qui la gente è troppo sospettosa. Ci beccherebbero prima di arrivare alla fermata dell'autobus. È estate, metti di dormire nei boschi e di camminare più che possiamo. Non possono controllare tutte le stazioni di autobus in tutte le città. Ti prego, Sibyl, se faccio un buon piano. Dopo l'ultima serie di elettroshock non ne ho l'energia. In effetti, Guardando la faccia di Sibyl, si rese conto di quanto fosse magra e tirata con quel pallore da recluso che avevano tutti. «Ma possiamo aiutarci a vicenda, possiamo farci coraggio l'un l'altra. Mia nipote non ci aiuterà, è troppo lontana, ma se riusciamo ad arrivare a New York ci darà dei soldi, so che lo farebbe. Tu le faresti una grande impressione, Sibyl, si interessa di astrologia e impazzirebbe per la stregoneria». «Se l'avessimo fatto subito, quando eravamo all'L6, sono stanca, Connie, sono debole, mi hanno risucchiato ogni potere. Tutto il mio potere si consuma per tenere lontane le influenze malefiche da questa corsia. Se riuscissimo a scappare, saremmo salve. $10, non andremo lontano, dobbiamo mangiare, e una volta che ci avessero preso, ci punirebbero senza pietà. Perché adesso cosa ci stanno facendo, Sibyl?» Fece un gesto verso il letto di Alice. «Almeno te lo fanno una volta per tutte. Sibyl sembrava demoralizzata. È davvero peggio dell'elettroshock? Non riesco ancora a ricordare tutta una serie di cose che so che prima sapevo. Sibyl, ti stai avviando a diventare una vecchia paziente. Davanti a te, davanti a sé, vedeva il reparto cronici, file e file di letti metallici, pieni di donne disperate, svuotate di ogni speranza. Un silenzio terribile. Non lasciare che vincano loro». Sibyl sorrise, fredda come un raggio di luna. «Non posso farlo, non mi sono ripresa, mi sento priva di orgoglio, ma ti aiuterò. Se io riesco ad andarmene e tu mi aiuti, ti puniranno». Sibyl alzò le spalle. «Non come puniranno te quando ti avranno ripreso. Chiederò a qualcun altro, non ti azzardare, non siamo amiche? Non credi che la mia lealtà valga qualcosa?» Sibyl si tirò su. «Forse, se tu scappi, io considererò la faccenda in una luce diversa. La cosa più intelligente è proprio che tu scappi per prima con il mio aiuto. Poi, quando sarai al sicuro, potrai darmi una mano». Quella sera, quando spensero le luci, Connie, a letto, pianse silenziosamente. nascose i $10 di Dolly sotto la soletta delle scarpe e convinse la valente a prestarle ago e filo per accomodarsi i vestiti. In un altro reparto quel lavoro di cucito sarebbe stato considerato un buon segno. L'interesse femminile, che la spingeva a sistemarsi gli abiti, le avrebbe fatto guadagnare dei punti, ma qui nessuno ci badava. Solo la gentilezza della valente fece sì che riuscisse ad avere quello che le serviva per aggiustare il suo guardaroba in modo che la gente non si voltasse a guardarla. La gente di fuori. Pensare che una volta aveva paura ad abbandonare l'appartamentino a El Barrio per le sporche strade ribollenti di calca. Si era sentita impazzire. Ora avrebbe strisciato sulle mani e sulle ginocchia per tutta la Lexington, pur di essere libera. Sabato sera fece un fagotto degli altri due suoi vestiti e dei pochi effetti personali e alle 8 cominciò a spingerlo fuori dalla finestra, attraverso la grata, per farlo cadere sulla siepe di ligustro lì sotto. Ci vollero 10 minuti per farlo passare attraverso le sbarre. Cercò di non pensare all'aspetto che avrebbero avuto i vestiti quando li avesse recuperati. Che almeno non piovesse, non pioveva da 2 settimane. Mentre trafficava con il pacchetto, Sibyl si portò vicino alla sala infermieri, dove provocò un po' di trambusto, non tanto da essere punita, ma sufficiente a distogliere l'attenzione delle infermiere del turno di notte. Perché non possiamo socializzare con gli altri reparti? Nel reparto dove stavo prima, almeno ogni qualche settimana, ci scambiavamo una bella visita con un altro reparto, fumavamo qualche sigaretta e mangiavamo biscottini. Qui invece niente, non possiamo nemmeno vedere un film, non facciamo ergoterapia, non c'è terapia della danza, non partecipiamo neanche alla terapia produttiva. L'ultima volta che sono stata qui, lavoravo alla lavanderia. Perché questa volta no? È proprio un reparto arretrato, ecco cos'è. Non facciamo nemmeno terapia di gruppo. Saremo gli unici pazienti attivi di tutto l'ospedale che non vanno alla terapia di gruppo almeno una volta alla settimana. Sibyl se ne stava lì altezzosa come una gran dama, inarcando le sopracciglia, atteggiando la voce, le spalle, protendendo un braccio in gesti teatralmente regali e cercando di tanto in tanto di dare un'occhiata a come se la cavava Connie. Connie, finito con il pacchettino, era corsa in bagno, dove aveva estratto dal reggiseno un pezzo di metallo che lei e Sibyl erano riuscite a staccare dal letto. Con molta attenzione si praticò un'incisione sulla coscia, finché incominciò a uscire il sangue, che raccolse in un bicchiere di carta di quelli che si usavano per le medicine, da loro previdentemente conservato. Allungò il sangue con appena un po' d'acqua per evitare che coagulasse troppo presto, poi tornò indietro di corsa e lasciò cadere il frammento di metallo sul letto di Sibyl. Quindi posò il bicchierino di carta vicino alla gamba del letto. Improvvisamente Sibyl smise con la sua tirata e fece un'uscita alla Bette Davis, indietreggiando nel corridoio. «Buonanotte, Lady Sibyl», le urlò dietro il sorvegliante di turno. «Stasera te ne daremo una bella dose». Connie si mise sulla strada di Sibyl e le rovinò addosso. «Guarda dove vai, stupida cicciona», disse Sibyl. «E tu guarda chi calpesti, razza di strega, pelle e ossa. Non fai altro che far andare la bocca dal mattino alla sera. Pensi di essere meglio di tutte noi. Non sei altro che una troia fuori di testa». «Diglielo», intervenne il sorvegliante di notte, ridendo. «Basta sentirti parlare per capire da dove vieni, dalla fogna», strillò Sibyl. «Almeno non penso di saper volare, ti hanno fatto talmente tanti elettroshock che ormai al posto del cervello ti ritrovi un toast bruciato». «Ah!» Sibyl si slanciò su Connie, afferrò il frammento di metallo lungo una dozzina di centimetri e lo tenne bene in alto, in modo che tutti potessero vederlo. Poi con quello cominciò a colpire Connie, alcuni fendenti arrivarono a segno e le fecero male davvero. Connie intanto reagiva con i pugni e le unghie, percuotendo Sibyl. Tina Ortiz si girò e arrivò di corsa in fondo alla corsia per prendere parte alla rissa. Alla fine Sibyl la colpì di lato alla testa. Connie tutto a un tratto vacillò, si accasciò ai piedi del letto, cercò a tentoni il bicchierino con il sangue e trovatolo, se lo versò nell'orecchio, si ficcò le dita violentemente nelle tenere mucose nasali, così che anche il naso cominciò a sanguinare. Poi scivolò nello stato di incoscienza che aveva imparato a simulare. Sentiva quello che accadeva intorno a lei, ma per il resto era come morta. Mentre stavano arrivando l'infermiera di notte, il sorvegliante e Pina. Sibyl dette un calcio al bicchierino di carta e lo mandò a finire sotto il letto. Pina gridò: «Jesus y Maria, l'hai ammazzata, brutta puttana bianca!» Fecero immediatamente una puntura a Sibyl e poi a Tina. Skip, che si era affacciato alla porta, nella corsia degli uomini, stava urlando inorridito. La rivoltarono, le diedero qualche colpetto, poi Sibyl, già intontita dai sedativi, venne legata con le cinghie. Spostarono Connie sul letto, l'infermiera di notte le sollevò le palpebre, la schiaffeggiò sulle guance. «Beh, credo che faremmo meglio a chiamare un portantino per portarla giù a fare le radiografie. Credo che sia una frattura. Chi è di turno? Probabilmente il dottor Clausen, quell'intelligentone del cazzo di New York. Redding ci farà la pelle!» Se succede qualcosa a uno dei suoi preziosi cervelli, te lo dico io. Prendi un gruppo dei casi peggiori e più violenti e schiaffali qui in ospedale senza la sicurezza adeguata. Poi cosa ti aspetti? È meglio che diamo un colpo al dottor Clausen e vediamo se sta dormendo. Intanto vai a svegliare il portantino, digli di portarla giù a fare le lastre, finché troviamo qualcuno che possa operarla. Oh, merda! Perché non hanno aspettato lunedì sera, razza di bestie? Fagli un'altra iniezione. L'inserviente che la caricò su una lettiga e la scarrozzò giù nell'atrio era infastidito, assonnato e annoiato. Che schifo, borbottava. Nessuno si affrettava. Parcheggiata con il lettino fuori dalla sala dei raggi X, sentiva i minuti che sgocciolavano lentamente, mentre l'inserviente e l'infermiera stavano lì a lamentarsi. Alla fine però l'infermiera si allontanò per fare delle telefonate e l'inserviente se ne andò alla macchina del caffè al piano di sopra, dopo essersi fatto cambiare un dollaro dall'infermiera. Appena il portantino scomparve, lei scivolò giù, si pulì il sangue meglio che poté con una coperta del lettino. Dal naso ne colava ancora qualche goccia. Poi si avviò a passo svelto verso la sala più vicina, provando man mano ogni porta. In uno sgabuzzino trovò il camice di un tecnico. Tutti i laboratori e gli studi erano chiusi. Di aperto c'era solo un inutile stantino delle scope. Finalmente, girato un angolo, vide una porta che dava sull'esterno. Sopra c'era una scritta che diceva che aprendola si sarebbe fatto scattare un allarme. «Che posso fare? Santa Maria, aiutami per una volta!» Ci passò di slancio e l'allarme cominciò implacabile a suonare, abbastanza forte perché lo sentissero ovunque, ovunque. Non aveva assolutamente idea da che parte dell'edificio fosse sbucata. Velocemente fece un giro, cercando i suoi vestiti, ma quando le luci fuori presero a balenare, lasciò perdere e cominciò a correre. Forse poteva nascondersi da qualche parte fino all'alba, finché le ricerche fossero cessate, per poi fare un altro giro alla ricerca dei vestiti. Se solo avesse escogitato un sistema migliore per portarsi fuori i vestiti. Corse quanto più velocemente riuscì a spingere le sue corte gambe sul prato, scavalcando siepi e schivando panchine. Presto sarebbero stati in tanti fuori a cercarla. Era fuori per la prima volta da aprile. Correva sbuffando come un mantice, tossendo sotto una scheggia di luna crescente, tanto appuntita da potercisi tagliare. Bianca come l'uncino di metallo con cui Sibyl aveva finto di assalirla. Splendente come la libertà, magra come le sue possibilità. Bella luna, madre, signora dei due corni, aiutami. Lucente che brilli lassù, amica mia, aiutami. Ma la falce affilata della luna si beffava di lei, le diceva con una voce roboante, come quella di Sibyl, che aveva fatto un piano, ma un piano da pazza, che non teneva conto di nulla dopo la prima fase della fuga. Quando aveva trovato le prime porte chiuse, si era fatta prendere dal panico e si era slanciata fuori attraverso l'uscita con l'allarme. Avrebbe dovuto continuare a provarle tutte, in tutti i corridoi, cercare un'uscita sicura. Magari non trovavano i suoi vestiti nascosti nel ligustro. Se si nascondeva, una volta che si fosse fatto giorno, poteva sbucare fuori nei viali, come tanti altri pazienti nei meandri intorno all'ospedale, e impossessarsi del suo pacchettino. Un'altra voce dentro di lei le diceva di correre, di mettere sempre più distanza fra lei e i suoi inseguitori. Scappa, e più tardi penserai ai vestiti. Hai $10, puoi comperarli, elemosinarli o rubarli, i vestiti. Lunedì arriva presto, ci sarà qualcuno che fa un bucato, i vestiti saranno lì appesi a un filo. Corri. La voce le diceva che se non prendeva al volo l'occasione che le si presentava, che se non faceva un salto nel buio, si aspettava come Sibyl che arrivasse il momento giusto non sarebbe arrivato mai. Alice non aveva tentato di scappare. Quale punizione peggiore potevano infliggerle che trasformarla in un giocattolo, in una marionetta, in una scimmia da laboratorio? Water hits the sides of the dam and I can watch it rise. Try to hold it back, but it just don't stay. Down to the field so we could watch the plane. So yeah, we waited for hours just to watch them come and fly away. Cause it seemed nothing was going on, and it seemed it'd been that way for a long, long time. So we got undressed just like the picture showed. The girls were saying yes, but the boys were saying no, and it feels like we fell out of a moving. Someone come up with something, there's nothing else to do here. It seems nothing is going on. So we're headed down to the coast to see what we could find. Maggie claimed the kingdom for me as a queen of Spain. Said, okay, I'll take it, but it's gonna be different this time. Everyone lives, cause life is holy. Connie decise di continuare a correre e di dimenticarsi il suo fagotto. Una sirena suonava nelle vicinanze, pattuglie di ricerca, la polizia, ce li avrebbe avuti dietro tutti. Sapeva dove scavalcare il muro, girò tra gli edifici, tenendosi al riparo delle siepi. Era contenta di essere già stata lì in precedenza, contenta di aver goduto dei privilegi di base verso la fine del suo ultimo soggiorno, così che ora ne conosceva la disposizione. Ecco, ora si stava arrampicando, scavalcava. Correva con le sue scarpette scricchiolanti da pochi soldi, attraversava la strada, si acquattò dietro un cespuglio, ansimando. Aspettò nel suo angolino che il respiro le tornasse normale. Tossì più volte e sputò. Usò il camice bianco per pulirsi il sangue dalla faccia, tirò fuori il rotolo di biglietti dalla scarpa e se lo cacciò nella tasca del camice. Quando l'affanno allentò la stretta sul torace, si alzò e si incamminò lungo la strada. Vedeva i fari delle automobili che si avvicinavano. Tutte le volte che arrivava una macchina, si nascondeva nei cespugli. Camminava a passo svelto. Prima di arrivare all'incrocio, alla fine del perimetro ospedaliero, la superarono 4 macchine. Una era della polizia. Tutte andavano troppo piano per essere automobilisti di passaggio. Si immaginò la descrizione. Squilibrata, pericolosa, in fuga. All'incrocio si fermò, osservando la distesa di asfalto senza alcun riparo. Poi si slanciò di corsa sulla strada spoglia. Era una superstrada statale, doveva seguirla, ma aveva paura di camminare sulla sede stradale. Per raggiungere un riparo ci sarebbe voluto troppo tempo. Si calò giù nel fosso di scarico che la costeggiava. Ogni volta che si avvicinava una macchina, si buttava a terra pancia in giù. Appena la macchina si era allontanata, si rialzava e riprendeva a camminare spedita. I lividi le facevano male, il taglio sulla coscia cominciava a infiammarsi e i piedi le dolevano già. Nei mesi passati aveva camminato pochissimo, aveva i piedi dolci, il suo corpo era flaccido e debole a causa della cattiva alimentazione e per la mancanza di esercizio. Si sentiva sfinita, voleva sdraiarsi nel canale di scarico, il sonno l'avrebbe invasa, pian piano, avrebbe invaso pian piano il suo corpo dolente, come acqua calda che riempie una vasca, sì, acqua calda, dolce e pulita, che sale a poco, fino a ricoprirla dolcemente di tepore. Si era inginocchiata, la testa che le ciondolava verso la ghiaia. Si costrinse a rialzarsi e ad andare avanti. E questa era la prima parte di una lettura che vi propongo di questo romanzo distopico sul filo del tempo di Mergi Piersi, che parla appunto di oppressione e di liberazione, di lotta con i denti e con le unghie per la liberazione. E siamo sempre su Zerlings Magnetics e per quanto mi riguarda ci risentiamo con il proseguimento della lettura il prossimo giovedì. Mandi a tutte e a tutti. Wrong way. ancora un saluto a tutte e a tutti quelli che ci stanno ascoltando via etere sui 90 MHz di Radio Onde Furlane, oppure in streaming, oppure ancora stanno riascoltando il podcast di questa, che è la trasmissione Zardins Magnetics di giovedì 19 agosto. Questa sera leggeremo un breve scritto da dentro le mura di un carcere. Si può dire dell'autore di questo scritto che da più di una vita è là dentro, rinchiuso. E l'apologo, il suo apologo, parla dell'importanza e della dignità delle rivolte del marzo 2020. Prima, però, voglio cogliere questa occasione anche per mandare un saluto a chi ora è in ascolto, magari per caso, e per qualche motivo si trova rinchiuso in una prigione o in un modo o nell'altro si trova limitato nella propria libertà dallo Stato. Siamo nella settimana di Ferragosto e sappiamo che, vuoi per il caldo, vuoi per la solitudine, adesso in galera la vita è più insopportabile. Se avete voglia di scriverci per spezzare l'isolamento, potete farlo indirizzando lettere o cartoline all'Associazione Senza Sbarre, alla casella postale 129 34121 Trieste. Scriveteci! E ancora voglio cogliere l'occasione, prima della lettura dello scritto su dignità e importanza delle rivolte di marzo 2020, voglio cogliere l'occasione per invitare tutti voi in ascolto a dare testimonianza della vostra solidarietà scrivendo ai compagni e compagne prigioniere gli elenchi con i nominativi e gli indirizzi aggiornati sono reperibili in rete, per esempio li trovate su Round Robin o su Olga, ma potete trovarli anche altrove, basta cercare. Scrivete. A proposito, stasera voglio richiamare la vostra attenzione anche su una situazione specifica, e cioè sulla situazione di Mauro Rossetti Busa. Mauro si trova prigioniero dal febbraio 2018, condannato in primo grado a 12 anni per un incendio a un distributore Eni e per una Molotov contro una sede di Casa Pound. Mauro sta scontando la pena nel carcere di Vicenza, è in attesa dell'appello e, siccome non piega la testa, si ritrova anche con altri processi per minacce a magistrati del tribunale di Caltanissetta. Da qualche settimana, come vi dicevo, si trova a Vicenza ed è stato lì trasferito da Agrigento. Il trasferimento è avvenuto via aereo e Mauro non ha potuto portare che un piccolo bagaglio, per cui le sue cose sono rimaste in Sicilia, tra le quali indumenti, scarpe, ma anche documenti processuali utili alla difesa dei processi di cui vi ho accennato. Mauro ha sollecitato più volte l'invio a suo carico del pacco con le sue cose, ricevendo risposte evasive. Una volta serve l'assenso del comandante, una volta serve l'assenso della direttrice. A quanto pare sembrerebbe che il pacco sia stato finalmente inviato e prima o poi speriamo che arriverà. Mandate comunque un saluto, una cartolina a Mauro Rossetti Busa, via Basilio della Scola 150, 3600 Vicenza. Scrivete. Remember, did he like it? it, I can't play low. He packed a pistol up and said he had to go. I had to convince him that he must stay. He rejoined the band after a couple weeks and 2 days. Now that we had our drummer back, we had to work hard to get him back on track. Day after day and night after night, preparing the grave, time after time. Things are looking good. We got a good name in the neighborhood. With many new songs and some originals too. It won't be very long before the static's with you. No shit, shit. Tutti mi dicon che io canti, nessun mi dice se saprei ben dire. Ho gran paura che la voce manchi e la temenza non mi lasci dire. Ma non mi vo pigliare tanta temenza. Io vo cantare e far l'ubbidienza. Ma non mi vo pigliare tanto timore. Io vo cantare e canterò di cuore. Io vo cantare un rispetto alla mancina, che alla diritta non mi torna bene. Credo d'andare all'erta e vo alla china, credo d'andar correndo e vo pian piano. Credo di pescare pesci e piglio lasche, credo d'aver du dame do du frasche. E canto e canto e canto che son pazzo, perché ne vengo da casa pazzia. Gli è pazza la mia mamma che m'ha fatto, gli è pazza la mia nonna e la mia zia. Gli è pazzo tutta quanta la mia gente, gli è pazzo chi m'ascolta e chi mi sente. Dunque, leggiamo insieme lo scritto Distribuzione dei cadaveri, dignità e valore delle rivolte di marzo 2020 nelle prigioni. O son che te ne vai, che te ne vai, o sol che te ne vai su di quei moggi. Fammi un bel piacere se potrai, salutami il mio amore, non l'ho visto. Separato la foglia del grano e non mi puoi sentire perché è lontano. Chi ha separato la foglia dell'uva e non mi puoi sentire casa tua. Separato la foglia dell'oppio Distribuzione dei cadaveri. Il prodromo fu ai riformatori. Era giunta, silente, la grande epidemia virale del 2019. Propagavano morte, malattia, spavento. Nel grande complesso nazionale dei riformatori, l'ulteriore pressione, grave, nuova, sulle condizioni di imprigionamento, vecchie, gravi, decise la rottura simultanea nei punti fragili del sistema. I riformandi si rivoltarono sull'eterna macchineria dei custodi, preposta alla di loro riforma e per un istante lungo prevalsero ribelli. I custodi scapparono alle cinte. Fiamme, vita, fumo, grida di liberazione. Qualcuno risultò a fuggire. Le strutture architettoniche a portata di danno furono danneggiate. Numerosi gli istituti devastati. Alla televisione apparì l'autorità garante le corrette condizioni di imprigionamento. Ammonì i rivoltosi a desistere la ribellione, a stenersi da ogni violenza. Garantiva delle condizioni di imprigionamento il ripristino corretto. I disordini proseguirono disordinati. Grida di liberazione, fiamme, vita, fumo. Lungo il lungo istante tutto. Infine, le forze dell'ordine ripristinarono l'ordine. I riformandi furono reimprigionati nei riformatori. Clang. Residuava il problema logistico. Un imprecisato numero di uccisi tra i rivoltosi, gli istituti devastati, carenti spazi di imprigionamento. Tutto andava correttamente riordinato. Vi soprintese l'autorità, garante la distribuzione dei cadaveri. Nel riformatorio di M, per dire, erano rimasti uccisi rivoltosi 9. Espletati i previ esami sanitari, come dovuto, furono disposte le traduzioni. Cadaveri 5 furono traslati all'obitorio della stessa città di M. Un cadavere altro fu traslato per l'apposito furgone per traduzione di riformandi imprigionati all'indirizzo dell'obitorio della città di A. Un cadavere altro, stessi mezzi, fu traslato all'obitorio della città di P. Un cadavere altro all'obitorio di un'altra città, A. Un cadavere altro ancora era stato destinato, per la verità, all'obitorio della città di T, ma morì durante il tragitto e così fu dirottato all'obitorio della città di V, che comunque era di strada. Poi, dopo, rapida diffondendosi disastrosa la grande epidemia virale per l'insieme del paese, il problema logistico della distribuzione dei cadaveri venne via via affrontato su più larga scala, per come, nell'epoca dell'economia politica, correttamente. Dignità e valore delle rivolte di marzo 2020 nelle prigioni.